Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Una puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata ad Andrea Camilleri e inevitabilmente al suo personaggio più famoso, ossia il commissario Montalbano. Camilleri, 89 anni, ha iniziato a lavorare come regista teatrale e sceneggiatore, ha insegnato anche al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e ha lavorato a lungo in Rai. La carriera di scrittore è iniziata tardi. Nel dopoguerra aveva pubblicato racconti e poesie. Il primo romanzo è però datato 1978. Si intitolava Il corso delle cose e fu quasi un flop. Dopo 2 anni pubblica Un filo di fumo, dove per la prima volta compare la città immaginaria di Vigata. Ma è solo nel 94, quando Camilleri ha quasi 70 anni, che compare Il commissario Montalbano. Primo titolo, La forma dell'acqua, pubblicato da Sellerio, come del resto poi verranno pubblicati da Sellerio tutti i suoi romanzi Montalbano. Altri titoli, Il cane di terracotta, Il ladro di merendine, Gli arancini di Montalbano, La pazienza del ragno, Le ali della sfinge, Un covo di vipere e l'ultimo Montalbano, Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano, una raccolta di 8 racconti sulle origini di questo suo personaggio seriale. Il successo di Camilleri esplode quando Montalbano viene portato in TV da Luca Zingaretti e tra l'altro le musiche di questo speciale sono del Montalbano televisivo, create dal compositore Franco Piersanti. Ma Camilleri, insomma, non è solo Montalbano, al quale comunque ha dedicato 30 libri. Gli altri romanzi spaziano, non so, romanzi storici come Il re di Girgenti, scritto in siciliano e spagnolo, altri romanzi come Il tailleur grigio e anche l'erotico nero come Il tutto mio. Complessivamente Camilleri ha scritto 100 libri che hanno venduto oltre 10 milioni di copie. Insomma, una cosa è certa. Ogni volta che viene pubblicato un libro di Camilleri, e ne pubblica diversi all'interno dello stesso anno, arriva ai vertici delle classifiche, che sia un Montalbano o meno. Incontrando Camilleri, insomma, non si può non partire da Montalbano. Dal momento in cui gli è venuta in mente l'immagine di questo commissario destinato poi a diventare uno dei personaggi più amati della narrativa contemporanea. Devo dire che è nato prima i fatti che riguardavano Montalbano, prima ancora che nascesse il personaggio. Cioè non riuscivo a definirlo fisicamente e quindi diciamo che nella prima stesura, anche nella seconda, lo chiamavo il commissario e non gli davo nessun nome. Poi lentamente ho cominciato a definirlo, però come in un puzzle, cioè ho visto che aveva molti capelli in testa, che aveva i baffi, ma non sono riuscito a definirne l'altezza, la corporatura. Insomma, questo personaggio fisicamente è nato attraverso i romanzi. Diciamo che già nel secondo romanzo è già abbastanza completo. Ma è vero che ci sono delle caratteristiche di suo padre in Montalbano? Ma questa è una cosa che se ne è accorta mia moglie verso il 5° o 6° romanzo e me l'ha detto. Sì, effettivamente diciamo che non è che ci siano degli episodi specifici che siano di mio padre che io ho riportato in Montalbano, no, è un modo di concepire il rapporto con le altre persone, è un modo di vedere il mondo. Mi chiamo Montalbano, sono un commissario di polizia. Commissario, devo parlare più forte, e mancherà nel sordo, non ci sente. Ha capito? Polizia! Che po'? Che capitano? Che è successo? Polizia! Ehi! Gli attrasisti! Grazie! Ma è che se facessi di cazzo? Grandissimi! Urloni! La prima volta che ha visto Montalbano sullo schermo televisivo interpretato da Zingaretti, che ha pensato? Ha detto, beh, insomma, mi piace, oppure aveva qualche dubbio? No, siccome me l'avevano già preannunziato che sarebbe stato Zingaretti, e Zingaretti in Accademia era stato, l'Accademia d'Arte Drammatica era stato mio allievo, quindi sapevo che il personaggio televisivo sarebbe stato lontanissimo dal personaggio che faticosamente ero riuscito a comporre scrivendo. Per esempio, ho già detto la folta capigliatura del commissario Montalbano e quanto dire, insomma, la diversità con Zingaretti, però sapevo altrettanto bene, questa non è piaggeria, lo dico seriamente, che bravo attore fosse Zingaretti. È uno dei pochi allievi miei che io ho seguito nei primi passi di professionalità, l'ho seguito in teatro quando cominciavo a fare le prime cose. Lei infatti nasce come, diciamo, sceneggiatore teatrale, regista, ha fatto anche l'attore, tra l'altro in un film, e scrittore. Se fra 100 anni le dovessero dedicare una strada, Andrea Camilleri è sotto, che cosa dovrebbero mettere? Ma direi scrittore, perché alla fin dei conti le cose si vanno pareggiando, cioè il numero delle... Oddio, non riuscirò mai a pareggiare scrivendo il numero delle regie radiofoniche, ma insomma mi avvicino molto alle regie teatrali, ho pubblicato oltre 100 libri, quindi... vuol dire siamo lì, però preferirei scrittore, ecco. Che rapporto ha con Montalbano? Insomma, a volte i personaggi seriali diventano un po' dei tiranni nei confronti degli scrittori. Sono ingombranti, e inevitabilmente sono ingombranti. Anche perché, vede, una volta che uno ha cominciato a scrivere 3 o 4 romanzi seriali, no? Molte parti del romanzo che deve scrivere nuovo sono già scritte, o almeno non sono da inventare, non c'è da inventare il commissariato, i caratteri dei personaggi che circondano Montalbano. Quindi diciamo che allo scrittore si offre una sorta di strada facile, in fondo è un invito alla pigrizia, no? E allora ci si cede volentieri. Certe volte invece, quando si ha l'urgenza di scrivere un romanzo diverso, è un po' un fastidio sapere che potresti in qualche modo cavartela facilmente scrivendo un altro Montalbano. Pronto, il commissario Montalbano, c'è il dottor Arqua per cortesia? Resti in linea. Commissario Montalbano? Sì. Mi dispiace, ma il dottor Arqua al momento è molto impegnato. Ah sì, è impegnato? Quando lo spegnono? Il dottor Arqua la prega di richiamarlo non prima di domani. Domani? Eh sì. Non prima di domani. Arrivederci. Grazie. Grazie a lei. Prima di domani. Cornuto. Ci sono di Camilleri naturalmente i Montalbano e i non Montalbano, come si dice, insomma, dei Simenon, i Maigret e i non Maigret. A proposito dei non Montalbano, lei ultimamente sta facendo dei ritratti di personaggi femminili in vari romanzi, poi ha dedicato proprio un intero libro Donne. Che rapporto ha nella sua vita con le donne? Ottimo. Sembra avuto un rapporto ottimo. Sempre ritenuto indispensabile avere un rapporto con le donne, qualsiasi tipo di rapporto, voglio dire, perché le donne poi nella vita di un uomo si bilanciano diversamente, coprono diversi tasselli, un ruolo fondamentale. Lo si vede leggendo, lo si vede guardando i film, lo si vede guardando le pitture. Insomma. Però lei dice che le gialliste donne non sono brave, non sono, cioè le donne non sono brave a scrivere i gialli, perché? Le gialliste donne in genere non hanno una forza di tensione nella scrittura come hanno. Ce n'è una sola, insomma, a quale faccio tanto di cappello, che è la Highsmith. Quella addirittura mi mette paura con le virgole, figuriamoci. Ecco, quella sì che è una scrittura molto maschile. Lei è stato considerato un po' anche l'ambasciatore della lingua siciliana in Italia, dei vari dialetti, naturalmente non si può parlare di siciliano in senso generale, e anche all'estero. I suoi traduttori si sono dovuti inventare dei linguaggi, penso non so al francese Quadrupani, che ha preso spunto da delle parole della Provenza, per esempio. Lei si è mai letto in un'altra lingua? No, io mi sono letto nell'unica lingua straniera che conosco, il francese. E quindi devo dire che sì, tanto quella di Quadrupani quanto quella della Vittose, che traduce i romanzi non polizieschi, sono delle ottime traduzioni, cioè fanno un tentativo proprio molto serio di traduzione di quello che è il linguaggio dialettale in un corrispettivo che in qualche modo produco lo stesso tipo di sensazione che la mia scrittura produce sul lettore. Ma lei, insomma, ha la consapevolezza di aver, come dire, sdoganato, di aver fatto conoscere anche molte parole di siciliano al resto d'Italia. Insomma, tutti gli italiani la leggono e capiscono quello che scrive. Beh sì, questo mi piace, questo mi ha fatto molto piacere anche due o tre anni fa, quattro anni fa, che era ancora la discussione sul ponte sullo stretto, si ricorda? Ecco, c'è stato uno scrittore italiano che non finirò mai di ringraziare, il quale scrisse sul Corriere della Sera: ma che bisogno c'è di questo ponte, tanto l'ha già fatto Camilleri di carta. E devo dire che è una cosa tra le più belle sul mio lavoro che abbia letto. Naturalmente il grande pubblico, quando sente Andrea Camilleri, pensa subito a Montalbano, anche se sappiamo la sua produzione è vastissima. Quanti Montalbano sono già pronti? Perché lei spesso anche a Radio 24 aveva dichiarato, ne ha scritti diversi, poi li manda alla Sellerio, poi di volta in volta si decide cosa pubblicare. Che la Sellerio ne abbia, nel cassetto ne abbia due attualmente, però non ne sto scrivendo un terzo, quindi non lo so quando finirà Montalbano. Il suo ultimo romanzo è già scritto al 1980. Quando non potrò più andare avanti, pubblicheremo quello. Lei nel 78 aveva pubblicato un libro a pagamento, insomma, oggi si direbbe self-publishing, no? Non aveva avuto un grande successo. Cosa ne pensa delle persone che si autopubblicano i romanzi? No, io vede, non è... No, è stata una cosa un po' curiosa. Ho sempre pensato male, cioè è una cosa che non mi piace, pur avendo degli esempi straordinari. Ungaretti pubblicò il suo primo libro, Il Porto Sepolto, a pagamento. E anche a me, quando ero giovanissimo, la casa editrice Guanda mi scrisse che se volevo pubblicare le mie poesie bastava mandargli 700 lire di allora e me l'avrebbe pubblicata. Io non volli. Quindi non è che io lo mandai all'editore a pagamento. Capitò così: siccome per 10 anni questo libro venne rifiutato da tutti gli editori italiani messi in fila, arrivato a un certo punto un mio amico decise, dice: me lo dai che ne faccio un romanzo sceneggiato per la TV? Io glielo diedi, lui cominciò a lavorare, passò la notizia su qualche giornale e mi scrisse l'editore a pagamento, Lalli, dicendomi: io le posso pubblicare il romanzo gratis, perché a me basta che nei titoli di coda spunti scritto edito da Lalli Editore. E così accettai questo, diciamo, compromesso, e lui mi pubblicò. Però devo dire che fece un'opera di bene, perché dopo 10 anni di rifiuti io mi ero bloccato, e quando ebbi tra le mani l'oggetto libro pubblicato da Lalli fu come stappare una bottiglia, perché entro un anno e mezzo scrisse il secondo romanzo, però quello venne pubblicato da Garzanti. E ricordiamo che Montalbano è stato pubblicato quando lei aveva già una 70 anni, insomma, quindi diciamo era già avanti con l'età, possiamo dire così. Beh, certo, perché io sono nato nel 25, il Corso delle cose, che è il mio primo romanzo, l'ho finito nel 68, e Montalbano arriva nel 94, quindi sono già un po' tanto avanti negli anni. Quando scrive un nuovo romanzo, Montalbano o non Montalbano, insomma, qual è il giudizio che attende di più? Quello del pubblico o quello della critica? Insomma, lei è uno scrittore già affermato. La critica non mi critica più, devo dire, perché in realtà non, quando esce un mio libro non se ne occupano. Perché? Non ho capito, forse sì, salvo di Montalbano, ma non l'ho capito. E non mi interessa, devo dire sincerissimamente, neanche il pubblico. Io scrivo, veramente scrivo per me. Se poi questo per me ha un riscontro, dato che io sono un raccontastorie, è chiaro che mi piace avere molto pubblico che ascolti le mie storie. E quindi se ha un riscontro di successo mi fa piacere. Se non ha successo mi dico pazienza. Ma le assicuro che non influisce affatto l'idea di cosa dirà il lettore dentro di me, non esiste. Continuo a scrivere i miei Montalbano, che si differenziano spesso e volentieri notevolmente dai Montalbano televisivi, senza che il Montalbano televisivo abbia la minima influenza sul personaggio letterario. Dicevamo che lei ha pubblicato Montalbano quando aveva già una 70 anni. Quando ha capito di avere in mano un personaggio esplosivo, insomma, che sarebbe diventato uno dei protagonisti della narrativa contemporanea italiana? L'ho capito tardi, perché per me la serie si fermava al secondo volume, Il cane di terracotta. È stata la mia editora, è stata Elvira Sellerio, che cominciò ad avere in mano concretamente i dati di vendita di quel libro, per dire: attenzione che si sta creando un certo tipo di fenomeno, per favore dammi un terzo Montalbano. Perché succede ancora tutt'oggi, sa? Montalbano mi permette che libri di 30 anni fa continuino a essere in catalogo, perché quando esce un nuovo Montalbano si vendono 100 copie, 30 copie dei vecchi libri, non Montalbano, degli altri libri, e la cosa mi interessa assai. E questo era Andrea Camilleri, la nostra chiacchierata su Montalbano e non solo, insomma uno degli scrittori italiani più amati e più venduti. E allora la parola torna proprio allo scrittore con l'audiolibro Camilleri legge Montalbano. Gli arancini di Montalbano. Il primo a cominciare la litania o la novena o quello che era fu il 27 dicembre il questore. Montalbano, lei naturalmente la notte di Capodanno la passerà con la sua Livia, vero? No, non l'avrebbe passata con la sua Livia la notte di Capodanno. C'era stata tra loro due una terribile azzuffatina di quelle perigliose, perché principiano con la frase «cerchiamo di ragionare con calma» e finiscono inevitabilmente a schifio. E così il commissario se ne sarebbe rimasto a Vigata, mentre Livia se ne sarebbe andata a Viareggio con amici dell'ufficio. Il questore notò che qualcosa non marciava e fu pronto a evitare a Montalbano un'imbarazzata risposta. «Perché altrimenti saremmo felici d'averla a casa nostra. Mia moglie è da tempo che non la vede, non fa altro che chiedere di lei». Il commissario stava per slanciarsi in un sì di riconoscenza quando il questore seguitò: «Verrà anche il dottor Lattes, la sua signora è dovuta correre a Merano perché ha la mamma che non sta bene». «E manca a Montalbano, stava bene la presenza del dottor Lattes, soprannominato Lattes e Mieles per la sua untuosità». Anche per questo speciale, Cacciatore di libri dedicato ad Andrea Camilleri, è tutto. Grazie in regia Valeria Bernardi. Vi ricordo che, come sempre, mi trovate su Twitter come Ale Teddina e su Facebook come Il Cacciatore di libri -Radio 24. Tutte le puntate su podcast. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.